Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko ad Andrea di Canarie, che è in collegamento con noi per parlarci dell'uscita imminente del loro nuovo album. Ciao Andrea, benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao, grazie a tutti, buongiorno a tutti. Il 11 novembre a mezzanotte uscirà la seconda parte del vostro nuovo album Immaginari, le ultime 8 tracce di questo album. Ti chiedo se ci vuoi raccontare qualcosa di più su questo nuovo progetto. Sì, appunto, come dicevi bene, è un progetto che è nato, cioè che ha cominciato insomma ad essere pubblicato all'inizio 2021. Avevamo appunto intenzione di fare, cioè visto che insomma la scrittura di Immaginari è stata molto, molto libera, molto irregolare, l'album è molto variegato, ha tante anime, tante volte, abbiamo deciso anche di dare una sorta di pubblicazione un po' irregolare, ci è venuto abbastanza naturale insomma pensarla come una lunga degustazione per spalmare come una crema densa questo disco su tutto l'anno solare, appunto. Quindi è iniziato a gennaio con la pubblicazione dei primi singoli e poi appunto si concluderà domani con l'uscita degli ultimi 8 brani. In realtà alcuni ne abbiamo diciamo tirati fuori nei mesi precedenti come antiposti, però appunto questi 8 brani andranno a comporre questo mosaico che è composto da 16 canzoni che raccolgono un po' tutti i nostri immaginari che abbiamo attraversato negli ultimi 2 anni abbastanza particolari. Quindi è un album molto, molto ricco, molto variegato, fatto da canzoni pop e non solo, canzoni che in realtà raccolgono e accolgono tante anime che vanno dal desert rock più africano all'elettronica, a pezzi un po' ballate più acustiche, quindi ce n'è per tutti i gusti e ce n'è più che altro per tutte le stagioni e gli stati d'animo. Dopo un periodo di pandemia, dopo diciamo 2 anni così di fermo della musica dal vivo, e penso anche al primo lockdown e quindi l'impossibilità di vedersi, di uscire e di suonare live, ti chiedo quanto questo periodo ha influito poi sulla realizzazione e anche sull'immaginazione di questi nuovi immaginari. Esatto, no, infatti il titolo diciamo non è casuale, perché vabbè, è un disco che anagraficamente figlio un po' della pandemia o comunque del periodo che abbiamo trascorso a casa, che in qualche modo dopo insomma lo shock iniziale abbiamo pensato bene di insomma investirlo per immergerci in altri immaginari letterari nascolti, insomma in disegni di film che in qualche modo hanno scaturito un po' la scrittura e la registrazione di questo disco, quindi è proprio un disco che è stato posto nell'ultimo anno e che in qualche modo ne è un po' una sorta di via di fuga, no? Per astrarsi un po' da una situazione fisicamente che in qualche modo era in mobilità, però in realtà non c'è freno all'immaginazione e a viaggi diciamo onirici, quindi è un po' anche il frutto di tutto questo. Il 12 novembre vi esibirete live al Covo Club di Bologna e ti chiedo anche in occasione dell'uscita di questo nuovo album se nei vostri live in qualche modo vorrete anche portare degli immaginari che non siano solo sonori anche sul palco. Sì, cioè diciamo che allora appunto siamo molto felici di tornare a Bologna, che è diventata da qualche anno anche la nostra casa, quindi insomma ci aspettiamo e speriamo che l'atmosfera sia bella, calda e accogliente. Diciamo sul disco, sul live, sì, porteremo alcuni brani immaginari insieme appunto dei visual che in qualche modo renderanno l'atmosfera più croccante, ma comunque non mancheranno anche gli assaggi insomma del disco precedente a cui siamo molto legati e che in qualche modo è un po' la madre di questo secondo lavoro. Ti faccio un'ultima domanda, sempre rimanendo sulla serata del 12, quali sono le emozioni di ritornare sul palco in questo momento in cui riparte la musica dal vivo e ripartono i concerti? Allora, le emozioni sono tantissime, noi siamo stati tra i fortunati che anche insomma dopo il primo lockdown, nella prima estate, siamo riusciti a fare un piccolo tour in acustico, poi cioè, vedendo davanti a noi sempre tutto il pubblico distanziato, seduto con le mascherine. Quindi diciamo che ed è stato bellissimo comunque, ma allo stesso tempo straniante per certi versi. Ecco, da quello che ho capito, adesso le limitazioni sono un po' allentate quindi già poter vedere delle persone sotto palco che si muovono, insomma, in qualche modo che possano ricevere in maniera più libera le nostre vibrazioni sonore, insomma, sarà bellissimo. Siamo molto emozionati e speriamo di farli ballare. Andrea, io ti ringrazio di questa chiacchierata e chiaramente invito tutte e tutti a partecipare alla serata del 12 novembre e anche di attendere l'uscita delle ultime 8 tracce di Immaginari. Grazie mille. Grazie mille Adele, ci vediamo presto. Ciao a tutti.